La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Trovati a questo nuovo appuntamento della prima volta, puntata particolare quella di questa sera che cerca di raccontare la sanità pubblica con gli occhi del cittadino, in particolare di quei cittadini che al sistema sanitario locale non riescono ad accedere per una ragione o per un'altra. È di pochi giorni fa uno studio del rapporto Osserva Salute 2016 che ci racconta che il nostro paese sta peggiorando su questo fronte. La conferma anche dal mondo delle associazioni. Damiano Rizzi, presidente di Sole Terre. La salute è una questione di giustizia sociale, sia in aree molto povere del mondo dove non c'è l'accesso ai servizi sanitari, ma proprio anche in Italia dove invece c'è accesso, per fortuna, molto spesso, grandemente, insomma, ai servizi sanitari, ma si stima che circa il 20% della causa di morte dei pazienti che si stanno curando di tumore è proprio dovuta alle difficoltà finanziarie, questo in Italia. Tanto che nel nostro studio parliamo di tossicità finanziaria del tumore, vale a dire che anche in un sistema sanitario pubblico avanzato come è quello italiano, le famiglie vengono debilitate a causa proprio del dovere spendere dei soldi per curarsi. Napoli, Napoli, Napoli, city that of love nestled in the heart of Italy. Sole Terre è una delle voci che popolano questo mondo fatto di prime volte, di coloro che scoprono di essere malati e contestualmente scoprono anche di non poter venire curati o almeno di non essere curati come in altre parti del mondo o dello stesso paese. In Italia al 2015 infatti la speranza di vita alla nascita è più bassa di 0,2 anni negli uomini e di 0,4 anni nelle donne rispetto al 2014. Soprattutto aumenta il divario tra nord e sud dell'Italia rispetto alla salute dei cittadini. Al sud, in particolare in Campania, si muore di più ed il sud dispone di minori risorse economiche, gravato dalla scarsa disponibilità di servizi sanitari e di efficaci politiche di prevenzione. Al sud è molto più alta la mortalità prematura sotto i 70 anni di vita. Dati che, se guardati da vicino, sono davvero impressionanti, soprattutto se parliamo di bambini. Leo è un ragazzino di Napoli, è un malato oncologico e da Napoli con la mamma è venuto a Milano, accolto in una casa dell'associazione Vida. L'altra parte della famiglia è dovuta rimanere a Napoli. E dietro questa storia c'è la constatazione e tutta l'amarezza di un paese che va a due velocità. Vengo da Napoli, provincia di Napoli. Mi chiamo Leo. Sono qui perché sono in cura qua all'ospedale, all'Istituto Tumori di Milano. E qui c'è anche tua mamma, tuo papà? Sì, ci sono i miei genitori. Ora sono solamente con mia mamma, però ogni tanto sale anche mio padre per stare con me. Lei è partita da Napoli insieme a suo figlio ed è stata costretta a fermarsi qui per le cure. Forse avrebbe avuto più piacere a stare a casa, cioè poter avere la possibilità di stare a casa. Giù a Napoli ci sono dottori bravi, ma è la sanità che purtroppo non funziona. Abbiamo avuto parecchie esperienze e non ci siamo trovati bene. Lei ha scoperto subito questa casa o prima siete passati dall'albergo cercando di mettere insieme i pezzi? Sì, siamo passati prima in albergo, poi una signora molto gentile sull'ospedale ci disse che c'era questa casa amica dove ospitava le persone che avevano problemi. Infatti chi ha problemi economici, secondo me, non può affrontare tutte queste spese, perché già dal treno salire, scendere, l'albergo, comunque non puoi cucinare, devi solo dormire, devi mangiare fuori. Che poi per stare dietro a suo figlio magari lei ha dovuto lasciare anche il lavoro, per cui c'è tutta una serie di cose concatenate. Sì, ho dovuto lasciare mia figlia, tutti i parenti giù, che comunque stando giù era diverso, ci sostenevano, ci aiutavano. Io ecco sto qua 24 ore su 24 e ogni tanto viene mio marito, perché avendo un lavoro dipendente non può mettersi in malattia, non può fare niente. L'amarezza nell'ascoltare questa storia sale soprattutto se parliamo di un sistema sanitario che in Italia funzionava bene. Ancora Damiano Rizzi, presidente di Sole Terre. Ma certo funzionava bene. Ci sono circa 800.000 persone ogni anno che si devono spostare dal sud al nord dell'Italia a causa proprio delle differenze di efficacia dei trattamenti antitumorali. E quindi a fronte di un sistema che in alcuni casi funziona benissimo, in altre zone, non necessariamente solo al sud, quindi in altre aree, la stessa oncologia e la stessa oncologia pediatrica, che poi è il tema che noi abbiamo affrontato nella maniera più specifica, si trova in grandi difficoltà a intervenire per alleviare il dolore e poi per guarire i bambini malati di tumore. Ecco, voi avete fatto questo focus sull'oncologia pediatrica e sono emersi dei dati impressionanti. Siete partiti dai dati dell'OMS, però poi voi stessi avete messo in atto tutta una serie di studi che hanno portato a dei numeri che fanno veramente impressione da leggere. Come dire, il tumore infantile resta una delle principali cause di morte in età pediatrica, questo anche in Italia. Fra i bambini dai 5 ai 14 anni resta la seconda causa di morte. Questo vale per l'Italia così come per altri paesi, diciamo, ad alto reddito. E il dato, come dire, allarmante è che la grande maggioranza dei bambini che sono malati di tumore, ricordiamo insomma che sono circa dai 170 ai 250.000 nuovi casi di tumore infantile registrati ogni anno. Circa l'80-90%, viene da dire quasi la quasi totalità, è proprio nei paesi di sviluppo dove purtroppo le condizioni per poter far fronte a questa malattia sono molto residuali, insomma sono basse. I tassi di sopravvivenza, che in Italia per fortuna è proprio perché insomma molte cose vanno molto bene e arriviamo all'80-90% di sopravvivenza, quindi poi di guarigione. In alcuni paesi come l'Ucraina, dove noi lavoriamo, siamo attorno al 50% di tassi di sopravvivenza per bambini malati di tumore, e questa percentuale precipita a circa il 10% in paesi africani come per esempio la Costa d'Avorio, l'Uganda, paesi nei quali riusciamo attraverso protocolli terapeutici che portiamo dal nord del mondo a far arrivare questi tassi attorno al 50%. Per i bambini che riescono ad entrare in questi trattamenti. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Expo due anni dopo. Dall'Agenzia Europea del Farmaco che lascia il Regno Unito a seguito della Brexit al nuovo polo tecnologico universitario. Le possibilità offerte dagli spazi costruiti per l'esposizione universale sono la nuova sfida che affronta Milano. Il nuovo viaggio di Radio 24 dal 17 al 22 aprile, ogni mattina nel GR delle 7. La prima volta. È un andare senza meta, un andare senza fine, ecco. Dove vai, ti prendono per un mascalzone, per un malfattore e tu te ne vai via pensando alla vita da persona onesta che tu hai fatto o per quello che tu hai dato agli altri, aspetti che arrivi la sera, va a trovarti un cartone, ti trovi in angoletto e la giornata finisce lì, ecco. Secondo me non c'è nessuna letteratura che abbia raccontato fino adesso che cosa sia la strada. Per capire la strada bisogna viverla. Sono un uomo qualunque, sono diventato un invisibile. Dicendo un uomo invisibile significa che tu magari avresti bisogno di tante cose e invece poi dopo ti rendi conto che tu non hai niente. Mi trovo in queste condizioni, adesso sono per strada, ecco perché sono diventato un uomo invisibile ormai. Ho cercato aiuto, soprattutto nella chiesa, ma mi è stato precluso, insomma, ecco. Ho girato un po' di qua, un po' di là, adesso mi trovo a Venezia, dormo in stazione, ti manca tutto. Non hai bagno, non hai da mangiare, non è una vita così comunemente, come si dice, civile, ecco, no? Diventi un invisibile, non fa più parte della società. Ho lavorato sempre nel settore turistico per moltissimi anni, ho girato a tre quarti di mondo, non ho mai controllato chi stava con me, se faceva i miei interessi o meno. Tutto ad un tratto il mondo mi è caduto giù. Quello che avete appena sentito è Adriano, un uomo di quasi 50 anni che ha perso il lavoro, poi la casa e infine ha perso anche la possibilità di essere curato, perché Adriano si è ammalato. Chi lo ha accolto è stato un ospedale mobile di Emergency. Dunque è puntata particolare quella di questa sera, che vuole parlare di sanità pubblica dando voce a chi non riesce ad accedere alle cure, una cosa che in realtà riguarda molte più persone di quante non immaginiamo. Stiamo parlando infatti di 11 milioni di persone che in Italia non riescono ad accedere alle cure mediche. Il polso della gravità della situazione ce l'hanno soprattutto le associazioni impegnate sul territorio. Da 10 anni Emergency, ONG attiva solitamente all'estero in contesti di guerra, è presente in Italia. Ci siamo chiesti e chiediamo al nostro ospite Michele Iacoviello, che per Emergency ha curato appunto uno studio per raccontare questi 10 anni, chi sono stati e chi sono gli italiani che si sono rivolti al programma Italia di Emergency. Il programma Italia infatti è nato nel 2006 con l'apertura di una prima struttura fissa a Palermo e poi appunto è proseguito con l'apertura di altre strutture fisse e con l'avvio di un progetto, con l'avvio del progetto delle cliniche mobili nel 2011 ed oggi abbiamo attivi sul territorio diversi progetti, quindi con diverse tipologie, strutture fisse a Palermo, a Marghera nell'area industriale di Venezia, a Polistena nella piana di Gioia Tauro in Calabria, Napoli, Castelvolturno e Sassari le strutture fisse. Abbiamo 3 unità mobili attive sul territorio nazionale. Un dato molto semplice rispetto alle persone che noi abbiamo incontrato in Italia a questa categoria particolare, quindi ai lavoratori stagionali, oltre il 70% di queste persone ha un regolare permesso di soggiorno, quindi questo significa che secondo la normativa in essere in Italia, queste persone hanno pieno diritto di godimento di accesso alle cure e quindi di assistenza socio-sanitaria. Di fatto nella realtà non è così. Ma perché non è così? Perché in tanti casi una delle principali problematiche è la residenza, che è uno dei principali problemi che impedisce l'accesso alle cure mediche. Spiego, se io ho un regolare permesso di soggiorno ma vivo periodicamente 3 mesi in Puglia, 3 mesi in Calabria o 3 mesi in Campania o in Piemonte e vivo di fatto in una baracca, in un insediamento assolutamente informale che non è riconosciuto e che non può, diciamo che non è riconosciuto dai comuni come un domicilio formale, come una residenza formale, io non posso eleggere lì il mio domicilio o tantomeno la mia residenza. E quindi il domicilio e la residenza è uno dei requisiti principali per potersi iscrivere al Sistema Sanitario Nazionale e scegliere il medico di base. Noi in Italia, okay, il fatto di non avere un vero domicilio ti scaraventa fuori poi da tutta una serie di servizi. Ma questo, volevo chiederti questa cosa, questi sono 10 anni sul territorio, ho visto la cartina, voi avete coperto veramente l'intero territorio nazionale, come dicevi anche concentrandovi sulle situazioni in cui c'era più necessità di intervento, soprattutto sulle persone che arrivavano da fuori, che quindi non avevano, come hai detto adesso, accesso a diritti di base della sanità. In questi 10 anni com'è cambiata la fotografia del vostro intervento? Cioè 10 anni fa immagino che ci fosse un certo tipo di storia, l'abbiamo visto anche proprio attraverso le pagine di cronaca, gli sbarchi sono diventati sempre più frequenti, le cose come sono cambiate in questi 10 anni? I numeri proprio. Guarda, noi ad oggi abbiamo visitato circa più di 60.000 persone con un numero di prestazioni pari a oltre 250.000 prestazioni. È aumentato nella tipologia delle persone che vengono nei nostri ambulatori. Negli ultimi anni in particolare abbiamo visto evolversi soprattutto le dimensioni e i numeri all'interno degli insediamenti informali. Abbiamo visto aumentare anche il numero di italiani. Perché un italiano si rivolge a un ambulatorio mobile di emergency e non va in una struttura pubblica, potendone godere a pieno titolo, nel senso che anche se sei ai margini della società dovresti essere... Senza fissa dimora, ad esempio, che appunto, cioè, è finito sulla strada e comunque vivi in una città diversa dalla sua residenza, perché in quella città riesce a trovare, diciamo, una, in passato in termine, una strada più ospitale, o comunque perché vive lì, ma vive non in una dimora fissa, appunto vive in strada, anche lui ha difficoltà a poter eleggere un proprio domicilio o una propria residenza. Perché io pensavo anche alle persone mm-hmm. che, per esempio, italiane, che non riescono ad avere accesso a cure specialistiche, quindi odontoiatria piuttosto che altro, e magari vengono da voi proprio per questo. Ci sono queste situazioni, ad esempio? Ci sono a Marghera queste situazioni di italiani che vengono da noi per accedere a cure odontoiatriche o ad altre cure specialistiche, e sono appunto i senza dimora e... Ecco, poi voi una volta che avete fatto, avete deciso di uscire con il punto di questi 10 anni di storia, avete anche raccontato per ogni singolo posto, diciamo, in cui avete operato una singola storia che fosse emblematica. Sì. Qual è sì. quella che a te ha colpito di più, nel senso che in qualche modo racconta meglio questa esperienza, questi 10 anni di emergency in Italia? Sicuramente la storia di Adriano, forse la storia del senza fissa dimora di Marghera, che viene in visita da noi a Marghera, è forse quella che un po' più da vicino mi fa pensare a quanto sia vero il fatto che 11 milioni di persone in Italia non riescono ad accedere alle cure, e comunque milioni di persone vivono al di sotto della soglia di povertà. E questo forse è il dato, è la storia che ti rende maggiormente l'idea di come si sta involvendo, diciamo, il nostro sistema, e come non riesca più a garantire quelli che sono i diritti minimi, che poi sono garantiti dalla Costituzione, dalle normative nazionali, locali, però poi di fatto una persona di 40 anni con un passato da chef, con tutta una vita tra virgolette normale, in seguito a fortuiti casi della vita si è trovato per strada. E questa è la storia che forse mi colpisce di più, ma perché la sento molto più legata ad un sistema, non ad un sistema paese al quale appartengo, che non riesce più a garantire i diritti fondamentali alle persone. Eccoci dunque giunti alla fine di questa puntata, vi ringrazio per essere stati con noi, potete riascoltare questa ed altre puntate andando sul sito di Radio 24 cercando La Prima Volta. Buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli, ci risentiamo la prossima settimana. Dainty feet circles inscribe upon the frozen parquet. Arabesque and compound times, the clip of an opore. Sultry smile, come hither gaze, black hair softly shining. Calls me up to Hoplet's bed, sweet cloud with golden lining. Oh, so young with ageless smile, born of ungodly maker, draws me moth to candle bright, fiery pleasure seeker. Sultry smile, come hither gaze, black hair softly shining. calls me up to Hoplet's bed, sweet cloud with golden lightning. She dances through the flower-filled room, sea green eyes are sparking. It's Ruby's dance, the message clear, her movement does the talking. It's Ruby's dance.